boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini, oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ciao Drago. Ciao Kappa, oggi venerdì, quindi facciamo in fretta e andiamo sì, via, dai. E parliamo anche di una cosa che ti piace, il crossover. Queste sono le macchine, gli automobili, ecco, crossover. Cos'è il crossover delle macchine? L'ho visto su internet, sì, che ne parlo. Non è un SUV, ma insomma è un po' fuori strada, un po' SUV, un po' tutto. Un incrocio, e quindi l'incrocio come quello che riguarda libri, film e videogiochi che non sono né per bambini né per adulti, non abbiamo parlato l'altra volta. Guarda che il crossover è una spiegazione a tutte le tue domande sul perché e il per come della regressione, dell'infantilismo, del crossover, tutto lì. È tutto lì, perché non c'è niente di cui preoccuparsi, capito? Siamo solo in una fase di crossover, capito? Sarà così, però. Cosa sarà? Bravo. Sì, è così, le cose pensate per un pubblico adulto non interessano più nessuno. Vabbè, finito. Dai. Prendi il bambino Augias. È grandissimo il bambino Augias. Ho capito, ma non è uno che tira sull'audience. Vabbè, ma lui scusami, c'è anche un po' un ricciolino. Capito, ma è uno dei rari esempi di personaggio televisivo serio, documentato, didascalico quel tanto che basta. Insomma, ce ne fossero tanti di Augias. Sì, ma prova a mettere Augias contro l'Isola dei Famosi e non c'è gara. No, l'Isola dei Famosi è crossover. Vince perché sì, è crossover, perché capito? Piace anche ai bambini. Lerner non è crossover. No. Come fai a guardare L'Infedele con tuo figlio di 6 anni? Ah, vabbè. Almeno ad anni zero, almeno lì ogni tanto insomma fanno un Fight Club e quello piace anche ai bambini. Ho capito, però non oppure, è che uno... non so, c'è il bambino Sgarbi che parte con un loop, insomma, capito? Ho capito, ma non puoi mica fare un programma televisivo avendo in mente come target il figlio del tuo spettatore medio. Cioè, guarda, è proprio così che la pensano quasi tutti gli autori televisivi. E si vede. Vabbè, ma è il crossover, Drago. Vabbè, il crossover, beh, la roba, adesso basta dire crossover e boh, ti ritrovi a leggere un libro che parla di vampiri. Sì, poi tu dici crossover e invece è crossover, con la O chiusa. Comunque, è un libro di vampiri, ti trovi a leggere a 40 anni e allora? E ti deve pure piacere, se no non sei moderno. Ma voglio dire, se devi essere un cretino, Drago, non esistono gli adulti sì, e non esistono i bambini, vabbè. È tutta una cosa uguale, capito? Un magma. Non devi sempre farti la domanda, ma questo libro è per bambini o per adulti? È per adolescenti o per ragazzi? No, se ti piace bene, se no niente. Io non ce la faccio a restare così in superficie. Ma infatti capito? Non ti piace niente. E non finisco un libro da 4 anni. Ma sai perché? Perché hai fatto come l'asino di Buridano. Cosa c'entra adesso l'asino di Buridano? Perché il crossover ti confonde come, proprio come i due covoni di fieno confondevano l'asino di Buridano, poveretto. E che fine faceva l'asino di Buridano? Che fine faceva? Te lo spiega l'onorevole tarantolato Tonino Di Pietro. Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. E ora, bambini, ricreazione! Tito, andiamo? Dai, ricreazione, Tito, su, anche tu. Prenditi un po' il tuo tempo. Sì, lasciaci in pace un po', perché dobbiamo parlare col bambino albondigas qui presente. No, oggi lasciatemi stare, Cosa oggi sono veramente arrabbiato. Vabbè, tanto per cambiare. Cosa c'è? Con chi ce l'hai oggi? Con mamma e papà. Ancora loro, ma poverini. Ma per forza! Uè, mi avevano promesso un weekend a sciare, no? A marzo a sciare, vabbè, un po' fuori stagione, costa meno. E infatti, con la scusa di marzo, lì c'è la fregatura, perché c'è la neve che si scioglie, eccetera. Bel tempo, sì. Allora mi hanno portato a fare una gita culturale. Vabbè, lo so che ti sembrano noiose certe gite, ma guarda che sono molto utili e quindi... Vabbè, sì, ti annoiano anche i genitori, tu fai solo bella figura a dire che sono utili, ma cosa però dici? È così che bisogna fare la gita culturale. Però dipende anche da dove l'hanno portato, cioè, dove ti hanno portato, bambino almirante? Chi? No, ma lascia stare certi nomi, scusa, stiamo parlando dei genitori del bambino Alberto, comunisti, che non mi tiri fuori, lascia stare, poi scoppiano polemiche, lo sai com'è, no? Comunque, mi hanno portato ad Ales. Ad Ales? Sì. E che posto è Dales? Ma non Dales! Dales, ad Ales. Alles, tutto in tedesco. Cos'è? No. Alles. Cioè... è un paesino della Sardegna, in mezzo alla Sardegna. A-L-E-S. Sì, dalla montagna a sciare alla Sardegna, non ho capito. In Sardegna si scia. Ma eravate al mare? Ma che mare? Eravamo in un deserto di rocce, di pietre. Ma perché siete andati proprio lì? Cioè, allora, perché lì, 2000 anni fa, era nato un idolo dei miei genitori. Ma chi? 2000 anni fa? Ma chi è? Ma che ne so io, cosa? Non mi ricordo. 2000 anni fa? Non so. Gesù Cristo, non ho capito. Fatto sta che è stato un viaggio incubo, eh? In Sardegna, Gesù Cristo. No, no, perché, no, perché mi ha preso macchina, poi traghetto. Traghetto un incubo, il mal di mare. Ma no, è bello il traghetto, scusa. No, ci ha portato via, insomma, faticosissimo. Siamo arrivati lì in un posto dove non c'è niente. Cioè, c'è solo questa casa, no? La casa vecchissima, perché 2000 anni fa, dove c'è una targa che parla di questo tizio sardo, e questo qui è quello che piace tanto ai miei. Ma non ho capito, è per caso il paese di Berlinguer? Non so, di Cossiga, sono cugini. Ma non lo so! È uno di 600 anni fa, tipo, no? Vecchissimo! Ah, sì. Perché dentro la casa c'era la foto, Sì, ma scusa, prima hai detto che era uno di 1000 anni fa, 2000 anni fa. 600 con la 600 foto, e poi c'è una foto. Magari c'è un ritratto, no? Ma no, c'era una foto in bianco e nero. E com'era sto tizio? Era uno... è un musino un po'... così, rincagnato, dei capelli ricci scompigliati, gli occhiali e la faccia triste. Ma allora è Antonio Gramsci. Sai che forse è quello lì. Ma gita alla casa natale di Gramsci è proprio l'ideale per un bambino dell'asilo. Ma certo, cioè. Cappa, la profondità del pensiero. Ma si annoierebbe anche un pensionato. No? L'ideale di libertà gramsciani sono utilissimi alle nuove generazioni. Anzi, dovremmo ripartire da lì. Se non ci fosse un piccolo particolare. Cioè, che a me non me ne frega niente. Ha ragione, scusa. Vabbè. Sì, perché poi il peggio è stato il viaggio, no? E sul traghetto, andata anche a ritorno. Scusa, 11 ore notturne sul traghetto, Un incubo. Ma guarda che bello, è suggestivo il traghetto, la traversata del Mediterraneo. Cioè. È suggestivo, io l'ho passato tutto il tempo a vomitare. Vabbè, ma poi ci si abitua, no? A vomitare. Al rollio, no? Al rollio, insomma. Ci si abitua anche a vomitare. Ma no, ma comunque, scusa, non dire che il viaggio in traghetto alla tua età è un incubo, perché non è vero, non ci credo. È l'esperienza più entusiasmante che si possa fare per un bambino della tua età. Ma scusate, vi ho appena detto che ho vomitato tutto il tempo. Ma tu dovevi mangiare roba asciutta, tipo asciutta. Focaccia o cotolette alla milanese ben fritte, esatto. No? Magari! E quella sera lì, cioè, c'erano solo finocchi cotti. Ma no, ma anche sul traghetto, ma non è possibile. Ma sì, perché quando la sfortuna ti perseguita, e poi è così. Io poi ho chiesto perché, non è che i finocchi cotti saranno una regola, no? E no, la sera prima c'era stata polpette di carne con le lasagne. Immagino quindi che avrai saltato la cena, poverino. No, perché mia madre, tra una vomitata e l'altra, mi ha obbligato a mangiare tutti i finocchi cotti. Ma come? Sì, questa storia perché mangia, ci sono i bambini in Africa che muoiono di fame, e tu butti via roba. Allora è giusto, Ma come è giusto? Ma... cosa c'entrano i bambini africani con il povero bambino albisola? Dai, sta pure male, vomita. Infatti, cioè, non è che se mangio quella schifezza di finocchi cotti, salvo dei bambini africani. No, vabbè, cosa c'entra? Dalla morte. No. Perché lì, no? Poi, tra l'altro, non è che muoiono solo di fame, muoiono anche di malattie, pieni di vermi, ma sì, però, bambino Alberto, alla fine siete arrivati ad Ales e che cosa è successo? Ad Ales. E cosa? Ve l'ho già detto, no? È finita lì. Sono andata a casa, ho visto il ritratto, dico, qui è nato Gramsci. E mi erano tutti contenti. Sì. Comunque, lì, via dalla casa, è uscita una vecchia e ha detto, andatevene. Eh sì, per quelli curiosavano, non è un posto che si va lì così, no? Certo, mica a Vetrana, che allora, gli fai le foto. Scusate. Mancava un'ora per il traghetto, Alberto, andiamo a mangiare qualcosa. Senti, una trattoria? Sì. E però era tardi, avevano solo finocchi cotti. Ma anche in trattoria? Vabbè. E poi siete tornati a casa. Così invece di sciare, Invece di sciare ho vomitato tutto il tempo, praticamente ho vomitato 22 ore e per un'ora invece che non vomitavo ero nella casa di Gramsci. Però scusa, almeno avrai saltato la cena, no? Questa volta al ritorno, o no? Sì che l'ho saltata. Però quella sera lì non c'erano dei finocchi, c'erano delle belle bistecche di maggio, il maggio argentino. E quindi? Solo che mamma mi ha detto, ma hai vomitato tutto il tempo, adesso vuoi mangiare anche la carne? E si è mangiata lei la bistecca. Si fa così, anche coi cani, se vomitano devono saltare il pasto per una giornata, vero Tito? Io però la bistecca me la sarei anche mangiata, sono mica un cane. E ora bambini, e tutti a casa. Drago, Drago, dai, attraversiamo. Attraversiamo. Se fai così. Lo scatto, devi fare lo scatto, hai capito? Vabbè, quando passa, quando ecco, fermo, passa il camion... adesso no, ti schiaccio. Ma quando passa c'era un gioco, te lo ricordi il gioco Frog? Sì. C'era un vecchio bellissimo. Gioco arcade videogioco. Bellissimo. E tu dovevi, non è solo questione di andare. Ma è nuovo quel gioco lì. Ma non è nuovo, Drago. Ma Drago, ma c'aveva 30 anni Frog. Vabbè, però come è uno Space degli Invaders. Ultimi, no? Ma cosa degli ultimi? Ma sta zitto. Allora, la logica lì di Frog era quella che non dovevi, non è questione di andare solo velocemente in avanti. Sì. certo. Ma è questione di fare lo zigzag, zigzagare. Però quindi andavano piano i tronchi. Ma noi questi tronchi, bravo, i coccodrilli. Bravo. No, qui ci sono camion, sì, autobus, macchine. E quindi devi stare in mezzo, passa camion, zigzaga con me. Attenzione, pronto, Drago, pronto con lo zigzag. Allora, adesso? Vai. Vai! No! No! Drago! Drago è morto, finito sotto un camion. Quello che sta suonando il kazoo è la sua anima risorta. Chiedo asilo. Sono morto. È morto.